Benvenuti e benvenute. Iniziamo adesso la presentazione del libro della coordinamento femminista lesbica. Prima però vorremmo iniziare leggendovi un estratto dell'introduzione, così per chi ancora non ha letto iniziamo a contestualizzare su cosa verterà il dibattito oggi. Prego. Va anche così. È importante e utile dare una definizione stretta di violenza perché è in atto una semplificazione, voluta e fuorviante, dei termini violenza e non violenza che sono stati trasformati in metaconcetti, privi di specificazione e collocazione. Si intende per violenza l'atto o l'insieme di atti con cui un soggetto privato, sociale, istituzionale interviene nella possibilità di un altro soggetto, anche questo privato, sociale, politico, impedendogli un comportamento spontaneamente realizzabile e o imponendogli un ruolo e una collocazione. Dalla definizione di violenza nasce la correlazione. Ah, ok. Dalla definizione di violenza nasce la correlazione tra la stessa e la forza che permette alla prima di realizzarsi. In questa società la legittimità dei mezzi garantisce la giustezza dei fini. La legalità è legittimità riconosciuta. La violenza legale è pertanto l'unica violenza legittima. Infatti la violenza viene praticata in e nei confronti di un'area sociale che non coincide con quella dei detentori del potere, e lo sforzo è tutto teso affinché questo uso della forza e i relativi comportamenti violenti siano accettati e interiorizzati nel costume dei più. Le elaborazioni teoriche e le campagne mediatiche sul non uso della violenza hanno come obiettivo esclusivamente i destinatari della violenza stessa. E chi la fa è consapevole dei rapporti di forza e di chi esercita la violenza in regime di monopolio. Nel comune sentire è passata l'immagine del femminismo come di un movimento che si batte per i cosiddetti diritti delle donne, caratterizzato dalla spinta per un cambiamento culturale e dalla scelta della non violenza. È un discorso fuorviante e mistificatorio che viene dallo stravolgimento delle lotte degli anni 70 ed è stato costituito attraverso passaggi precisi. È necessario che il movimento femminista faccia i conti con una lettura falsa e manipolata della sua storia e con le contraddizioni che la stessa storia ha prodotto. Ma perché questa non diventi, ora e qui, la storia del patriarcato, si deve riannodare al suo percorso storico e politico, quando è stata allusione potente ad un'altra vita. Il sistema di potere ha operato attraverso meccanismi intrecciati. Da una parte ha esaltato e propagandato il femminismo socialdemocratico come vero e unico femminismo, presentandolo sfaccettato e diversificato in varie accezioni, ma saldamente compatto nei principi di fondo, dandogli risonanza e diffusione attraverso gli strumenti della propaganda mediatica. Dall'altra ha presentato come positive e vincenti le lotte categoriali e il rapporto e la mediazione con lo Stato. Sono state così volutamente dimenticate, con un'operazione di rimozione totale, tutte le istanze e le soggettività in contrapposizione ideologica e materiale con questa società che il movimento femminista ha prodotto negli anni 70 e che hanno fatto uso e teorizzato la pratica della violenza politica. Dall'altra, ancora il concetto di violenza politica è stato svuotato dei suoi contenuti antagonistici, quali la rabbia, l'autodifesa, l'indignazione, la rivolta contro la norma, contro la sopraffazione e lo sfruttamento, contro l'oppressione patriarcale, contro la società divisa in classi. Questo è scusate che taglio dei pezzi. Questo è il senso del neoliberismo e non vogliono neanche far prigionieri e prigionieri, infatti non tollerano il silenzio. L'iperborghesia ha dichiarato guerra alle cittadine e ai cittadini di questo paese e ai popoli tutti e, come quando si va in guerra, ha chiamato alla mobilitazione. Questo è il senso del perché alcune e alcuni si prestino a confondere ancora l'aggredito con l'aggressore, l'oppresso con l'oppressore e a fare l'equazione non omologati uguali violente e violenti, che è indirizzata a chi si ribella, ma i veri destinatari sono gli oppressi e le oppresse tutte e tutti. I teorici della non violenza il nemico lo generano all'interno degli oppressi e secernono ogni sorta di metastasi disumana, dove la non violenza diventa la violenza di un sistema che perseguita ogni forma di singolarità, che vieta il conflitto, che lavora per instaurare un mondo che omette ogni differente ordine del corpo, del sesso, della nascita, della morte. È necessario recuperare la valenza antagonista e liberatoria del femminismo, riaffermare con forza l'alterità di ogni movimento femminista e qualsiasi ipotesi di gestione di questa società. Porsi fuori e contro la società del capitale a partire dal rifiuto della sua ideologia al fine di far valere la volontà di riscatto e di liberazione delle oppresse e degli oppressi. una pratica di riappropriazione e soddisfazione dei propri bisogni, fuori e contro il lavoro salariato, i ruoli, la meritocrazia, le gerarchie. Sapendo che dovremo fare i conti con il riformismo e la socialdemocrazia, tutti tesi ad amministrare l'oppressione delle donne, dei lavoratori, del popolo del terzo mondo. Un ruolo particolarmente importante in questo contesto viene ricoperto dalla componente femminile socialdemocratica, dalle vestali della legalità e dalle prefiche della non violenza, tutte intente a contrabbondare un buonismo di facciata per anima del femminismo. Un buonismo infinitamente violento per intolleranza, demonizzazione, la ghettizzazione di chi non la pensa come loro. Un buonismo violento che trascina ogni rivendicazione nel pantano di un asservimento volontario, in una litania di querule richieste, di delega e di protezione, togliendo capacità di indignarsi e possibilità reattiva. Un buonismo di facciata che riporta le donne e le diversità alla condizione di essere da tutelare, continuamente alla ricerca di attenzioni e di approvazione. Grazie. E questa era l'introduzione del volume che presenteremo oggi. Volevo innanzitutto ringraziare il Gigi Piccoli, che è lo spazio che ospita e ci ospita oggi, e ospita il gruppo di autodifesa femminista che ha organizzato questa presentazione, e che si riunisce e si allena da un paio d'anni qui a Verona. E abbiamo voluto cogliere l'occasione della pubblicazione del libro per invitare le compagne di Roma della Coordinamento Femminista e Lesbica per sviscerare alcune tematiche. E nella presentazione adesso parleremo di cos'è l'autodifesa, cosa si intende con autodifesa e cosa si intende anche con separatismo, perché sebbene diciamo sia nato questa pratica femminista dagli anni 70 in Italia, e purtroppo anche ora ad oggi, nel 2022, siamo a spiegare cos'è il separazionismo. E cercheremo di farlo, cercheremo di affrontare queste tematiche insieme, ma vorremmo anche che questo discorso non si fermasse solo al femminismo, ma che si allargasse alle pratiche di militanza in generale. Perché l'obiettivo del femminismo è sempre quello di portare delle pratiche e la propria rivoluzione anche all'interno di spazi e contesti misti, altrimenti tutto questo non avrebbe senso. Quindi non pensate che oggi parleremo di donne e di sole donne, stiamo parlando di tutti noi, tutte e tutti noi, e la cosa ci riguarda tutte e tutti. Le compagne sono venute qui da Roma, hanno messo insieme un insieme di incontri che si sono svolti dal 2017 al 2021 e li hanno raccolti nel volume Femminismo, paradigma della violenza e della non violenza. Come avrete capito dall'introduzione, il tema principale è questo. Vi leggo gli incontri che si sono svolti e che sono riportati nei vari capitoli, che sono le militanti del Black Panther Party, di Silvia, un incontro con Silvia Baraldini, Rote Zora, guerriglia urbana femminista con le editrici femministe appassionate, L'ho sempre saputo con Barbara Balzerani, delle riflessioni sui ruoli, Le radici della rabbia, come sentire repressione sotto cultura e egemonia culturale, con Federica Paradiso, Reattive, laboratorio post-vittimista con Nicoletta Poedimani, Legalità, asservimento, norma, stigma, delazione, controllo con Silvia De Berardinis e alcune riflessioni finali. E adesso vorrei lasciare la parola alle compagne di Roma, chiedendo loro di raccontarci chi sono e quindi perché, cosa stanno portando avanti a Roma e come è nato questo libro. Ciao a tutte, ciao a tutti, grazie tantissime per questo incontro, grazie allo spazio che ci ospita e grazie alle compagne che ci hanno chiamate. Ci fa infinitamente piacere poter scambiare pensieri, perché l'obiettivo di tutto quello che facciamo, cerchiamo di fare, è quello di costruire critica al presente per avere modo di costruire azioni per uscire da questa società. Il libro, come ha detto la compagna prima, è l'insieme di un incontro, di una serie di incontri che la coordinamente ha fatto in 2 anni e mezzo, prima del, chiamiamolo, periodo pandemico, vogliamo chiamarlo così, e che abbiamo poi continuato come riflessione durante e che abbiamo portato a conclusione dopo, quindi c'è un prima, un durante e un dopo. Allora, 2 parole sulla coordinamenta. Noi siamo un gruppo che è nato nel 2011, ufficialmente l'8 marzo del 2011 è il primo volantino che abbiamo dato, però nasce dalle ceneri di quella che era l'assemblea romana, che man mano si è andata disgregando più o meno dal 2008, 2009, 2010. Diciamo che la coordinamenta prima era un gruppo di gruppi, cioè il nome viene da lì e non è un nome pomposo che ci siamo date, è un nome che poi ci siamo tenute, perché siccome c'è stato un percorso coerente di tanti modi e di tante azioni, poi l'abbiamo tenuto. Però era un gruppo di gruppi, cioè facevano parte della coordinamenta tanti collettivi e diversi, con ambiti di azione diversi, sia territoriali che nazionali, però poi di questi collettivi, di fatto nel gruppo generale ne è rimasta una, due di ogni gruppo e si è formato un altro gruppo. Man mano questo ha preso un percorso indipendente, anche perché poi i gruppi, come voi sapete, chiudono, aprono, si modificano, cambiano, eccetera. E quindi la coordinamenta man mano si è definita come gruppo a sé stante, quindi sono 10 anni che lavoriamo. Abbiamo fatto diversi incontri nazionali e ci siamo sempre dichiarate separatiste come analisi e come modo per affrontare le problematiche dell'oppressione delle donne, ma anche le problematiche di tutta l'oppressione che grava su questa società, però allo stesso tempo abbiamo sempre avuto un rapporto di discussione e di confronto con l'esterno anche nel misto, è per quello che noi facciamo anche questi incontri. E dopodiché siamo femministe, ci dichiariamo femministe materialiste, che è una definizione a cui teniamo molto. Adesso aprire questo discorso è, diciamo, porta troppo lontano. Però il femminismo, di fatto, parlano tanto, ci sono tanti femminismi, i femminismi sono di tanti tipi, non è vero, nel senso che il femminismo è uno solo, che è quello che fa percorsi di liberazione, che percorre strade di liberazione, in infiniti modi, che sono gli infiniti modi in cui tutti i gruppi e tutte le soggettività possono portarli avanti, ma il femminismo è quello che percorre strade di liberazione. Tutti gli altri approcci, secondo noi, siccome deve essere fatta un'operazione anche nell'approccio politico alle cose di verità, sono altro, cioè chiamiamoli con il loro nome, sono emancipazionismo, sono lotte categoriali, sono rivendicazioni di carriera personale, a seconda dei vari tipi, sono anche collaborazionismo, cioè il fatto, il femminismo, quello che va per la maggiore viene chiamato femminismo per la maggiore, non è necessariamente femminismo. Secondo noi il femminismo è solo quello che percorre strade di liberazione, ripeto, negli infiniti modi che queste strade possono prendere. Non so se tu vuoi continuare con le nostre incontri nazionali, perché senti... Allora, abbiamo fatto vari incontri nazionali e in realtà uno dei primi lavori a cui, che in realtà fa parte del periodo in cui appunto eravamo tanti gruppi diversi che facevano parte della coordinamenta, e è stato un opuscolo proprio sulla violenza, quindi in realtà questo è un tema che a noi è caro perché l'abbiamo, diciamo, ribaltato in ogni modo per analizzarlo. E ovviamente quello era un primo passo, perché era veramente un piccolo opuscolo che ancora si trova sul nostro blog. E poi c'è stato l'incontro sulla lotta delle donne nella lotta armata, e anche lì siamo riuscite comunque a sviscerare un po' quello che siamo partiti dal fatto che appunto la narrazione, in realtà poi la partecipazione delle donne all'interno comunque dei gruppi di lotta armata, l'idea c'era venuta dalla resistenza, che però abbiamo ritenuto un po' troppo distante dal punto di vista anche meramente storico da noi, era stato quello del fatto che le donne che avevano fatto la resistenza e che avevano imbracciato comunque le armi, una volta finita la guerra, erano state completamente dimenticate, e non solo, peggio, gli era stato proprio chiesto di non imbracciare più i fucili, e addirittura in alcune parate post guerra i partigiani sfilavano con le armi e alle partigiane era stato chiesto invece di non usare, di non portarle. E quindi da lì è nata un po' l'idea di parlare appunto del ruolo delle donne nella lotta armata. E però appunto, come dicevo, non abbiamo deciso di non parlare della resistenza, ma di parlare di un periodo, diciamo, più vicino a noi, e che in realtà fosse poi, era importante per noi perché era la base poi politica da cui partivamo, cioè gli anni 70, e quindi non c'era solo un legame meramente cronologico con noi, ma c'era un legame molto politico con quello che era successo in quel momento storico. E quindi abbiamo cominciato a costruire questo incontro nazionale parlando con alcune compagne che avevano fatto la lotta armata, e non solo, anche confrontandoci semplicemente su quello che era poi quell'ambito, quel discorso. Ed è stata una cosa molto interessante perché ci ha permesso comunque di sviscerare, di dirci cose che appunto, sempre in un ambito separatista, una volta finito il convegno nazionale, gli atti sono stati pubblicati, gli atti poi sono stati comunque portati in ambienti misti, dove abbiamo avuto delle discussioni, dove abbiamo fatto iniziative pubbliche di dibattito e di confronto. Questo per ribadire un po' il nostro modus operandi, cioè nel senso, noi riteniamo che poi ne parliamo più avanti, però che il separatismo sia ovviamente necessario per un'analisi politica femminista, ma che poi i frutti di questo ragionamento possano essere tranquillamente poi portati all'esterno per essere comunque seminati e per permettere a questa analisi politica in realtà di espandersi, di crescere meglio, perché ce n'è molto bisogno. Volevo dire due cose passando sul separatismo, cioè il separatismo sarebbe una cosa da sviscerare in maniera molto più precisa, non so se le compagne avranno voglia o tempo, perché è un discorso che viene da lontano, nel senso viene addirittura dalla definizione del patriarcato. Cioè il patriarcato non è qualcosa che aleggia per il mondo a distribuire violenza, cattiveria, prevaricazione e roba del genere. Il patriarcato è semplicemente un modello economico basato sulla gerarchia e sulla differenziazione sessuata dei ruoli per una migliore e proficua estorsione di lavoro e di plusvalore dei soggetti interessati. Quindi è una visione, è una monocellula gerarchica e specializzata, non è qualcosa che è non è qualcosa che culturalmente incide in questa società, dipende proprio dalla struttura della società. La cultura, i modi, i tempi, le fiabe, i miti, le religioni, l'etica, sono tutta una conseguenza di una strutturazione economica. Diciamo, questa impostazione viene fuori dal femminismo materialista degli anni 70, perché francese, non nostro, perché la prima volta che è stato nominato il patriarcato in questo senso come modello economico è dal gruppo di Christine Delphi, Monique Wittig, Paola Tabet del femminismo degli anni 70, che ha comportato una svolta fondamentale nell'approccio alla violenza e all'oppressione in genere, perché fino a quel momento si parlava tutti quelli che erano particolarmente sensibili, interessati, dai comunisti ai socialisti, anche ai cattolici, agli anarchici, cattolici diciamo illuminati, anche i borghesi illuminati, si rendevano conto che nella società la donna aveva una posizione estremamente svantaggiata e quindi tutti dovevano darsi da fare per far sì che questo divario fosse colmato. Questa si chiamava, veniva definita una questione femminile, cioè nel mondo c'era una questione femminile che doveva essere risolta. La differenza tra questa visione e quella di patriarcato e quindi di oppressione di genere è degli anni 70. Il paradigma viene completamente ribaltato, nel senso che c'è un maschile dominante e un femminile sottomesso, che è il frutto però di una volontà di sfruttamento in ruoli precisi funzionale a questa società. Questo tipo di impostazione è stata assunta dal capitale in maniera eclatante, perché è molto consona al suo modo di estrazione di plusvalore in maniera estremamente specializzata e ruoli lavorativi specializzati. Quindi il femminismo riconosce nella società una strutturazione dell'oppressione delle donne funzionale proprio al modello economico. Quindi è inutile che noi facciamo le lotte senza intaccare il problema della gerarchia, del dominio, del possesso, le lotte soltanto per il miglioramento della condizione femminile. Queste diventano lotte categoriali, non sono lotte di liberazione femminista. Noi per fare una lotta di liberazione femminista nel nostro piccolo dovremmo batterci contro meritocrazia, gerarchia, possesso, dominio, definizione dei ruoli all'interno della società, non soltanto nostri, ecco. Vabbè, poi ci sono gli altri. No, altrimenti abbiamo paura. Vai. Abbiamo paura di farla troppo lunga. Vai. Grazie Elisabetta, grazie Noemi. E mi sono dimenticata di dire prima che questo incontro è in diretta su Radio Eustachio, quindi ringraziamo i ragazzi e le ragazze di Radio Eustachio. Ed essendo in diretta, se ci sarà un dibattito, il dibattito non sarà trasmesso in diretta, comunque se ci sono delle domande e comunque qualcuna volesse intervenire e non si sente a suo agio con la diretta, può essere interrotta in qualsiasi momento, ecco. Ecco, dopo la definizione di separazionismo vorremmo concentrarci sull'autodifesa. Volevamo iniziare leggendo una poesia di Audre Lorde, una scrittrice e poetessa afroamericana, intitolata Litania per la sopravvivenza. Per quelle di noi che vivono sul margine, ritte sull'orlo costante della decisione, cruciali e sole. Per quelle di noi che non possono lasciarsi andare al sogno passeggero della scelta, che amano sulle soglie mentre vanno e vengono, nelle ore fra un'alba e l'altra, guardando dentro e fuori e prima o poi allo stesso tempo cercando un adesso che dia vita a futuri, come pane nelle bocche dei nostri figli, perché i loro sogni non riflettono la fine dei nostri. Per quelle di noi che sono state marchiate dalla paura, come una ruga leggera al centro delle nostre fronti, imparando ad avere paura con il latte di nostra madre, perché con quest'arma, questa illusione di potere essere al sicuro, quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci. Per noi tutte, questo istante, questo trionfo, non era previsto che noi sopravvivessimo. E quando il sole sorge abbiamo paura, che forse non resterà. Quando il sole tramonta abbiamo paura, che forse non si alzerà domattina. Quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura dell'indigestione. Quando abbiamo la pancia vuota abbiamo paura di non poter mai più mangiare. Quando siamo amate abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo sole abbiamo paura che l'amore non tornerà. E quando parliamo abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte. Ma quando stiamo zitte anche allora abbiamo paura. perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che noi sopravvivessimo. Partire da questa poesia era un modo anche per entrare in un linguaggio per tutte e tutti, che arrivasse anche un po' dalle viscere dei racconti autentici, che è anche un po' forse quello che è lo sguardo femminista in sé, cioè di partire da sé, dai propri vissuti, dalle proprie esperienze, allontanandosi da dei linguaggi di cui può essere anche un po' più difficile appropriarsene, dal momento che sono più accademici o sono più teorici, spesso si allontanano poi dalla realtà quotidiana. Il nostro percorso di autodifesa, che è partito appunto 2 anni fa, è nato da questa necessità di creare uno spazio dove autorizzarci innanzitutto alla parola in maniera differente, senza avere paure di giudizi, perché c'è da dirlo, c'è anche paura di autorizzarsi alla parola, anche in contesti di movimento. È partito da l'autodifesa, forse ci ha anche aiutato a partire dai corpi per incontrarci, a riscoprire una forza che è anche violenta, nel senso che può partire anche da un impulso muscolare. Elsa Dollin ha scritto un libro che si chiama Filosofia della violenza, in cui dice che sarebbe interessante cambiare il punto di vista su cui si guarda verso la violenza, spostandosi dalla legge a livello invece muscolare. Cambierebbe totalmente il modo in cui la politica o la narrazione guarda su questa. E quindi l'autodifesa non è un incontro di allenamento e basta, come dicevamo prima, ma è uno spazio di confronto, di reciprocità, dove orizzontale, dove ognuna si trova a condividere i propri vissuti attraverso non solo quello che è l'allenamento fisico, ma anche abbiamo utilizzato più volte delle forme laboratoriali come il teatro dell'oppresso, alcune pratiche del teatro dell'oppresso, dei giochi, per innanzitutto scardinare un po' questa paura, riconoscerla, perché anche quando parliamo del rifiuto della delega, molte volte la delega parte proprio da questo sentimento di paura, da una colpevolezza, e questa colpevolezza porta anche a un sentimento di impotenza e quindi ci fa ritrovare in una situazione in cui è più facile delegare a qualcun altro il problema, invece che crearsi i propri strumenti, anche in base appunto alle esperienze di tutte. E quindi abbiamo lavorato su più livelli, non solo sull'allenamento fisico, che potesse sì rinforzare e farci un po' di corazza anche fisica, riconoscere anche l'incazzatura, la rabbia. E poi abbiamo approfondito anche, abbiamo cercato comunque di costruire una linea di pensiero, capire dove volevamo concentrarci, dove potevamo soffermarci attraverso delle letture. Quindi ci sono stati, ecco, più piani di lavoro e questo è stata un po' anche l'occasione per poterci raccontare, perché dopo 2 anni non abbiamo mai, erano tutti un po' lì, ma che cosa state facendo? E abbiamo trovato anche qui un po' l'occasione. E l'idea è anche quella di non andare avanti anche tutta la rappresentazione dell'autodifesa come la creazione di donne forti, ma anzi, proprio perché necessitiamo di questo spazio e abbiamo trovato tanta forza tra di noi nello stare in questo spazio, riconosciamo anche i nostri limiti e le nostre fragilità, partendo da quello per prenderne consapevolezza e poi dire ok, adesso sono pronta per lo step successivo. Quindi volevamo un po' chiedervi qual è stata un po' la vostra esperienza con l'autodifesa, quante volte se avete dovuto e come vi siete, quante volte avete dovuto giustificare il fatto del separatismo e se ci sono state mai delle richieste di altre soggettività che possono essere minoranze sessuali o non, che hanno chiesto se fosse possibile accedere al percorso. Allora, la nostra esperienza con l'autodifesa è venuta venne da un'esigenza che sentivamo, e appunto in realtà hai detto bene, insomma, hai centrato il punto di quello che anche noi abbiamo pensato. E sull'autodifesa in realtà appunto non è né un allenamento ma è un atto politico. E in quanto tale ovviamente ci ha permesso di mettere a fuoco quello che è il ruolo della donna nella società, cioè la donna dai secoli dei secoli è fondamentalmente creata per subire tutto quello che c'è da subire. Al lavoro di cura, non si deve fare troppe domande, fondamentalmente è quella che deve tenere insieme tutti i pezzi che si rompono. L'autodifesa era uno strumento che ovviamente insomma ci è stato tramandato, non ci siamo inventate assolutamente nulla da altre compagne, che ci potesse permettere di ragionare su come ribaltare questi ruoli anche. Quindi come ribaltiamo il fatto che la donna è costruita dalla società per subire, per accogliere, per curare, e quindi come facciamo a rompere questo? Come possiamo diventare politicamente più coscienti di quello che quello che attraversa il nostro corpo? Ripartendo dal corpo, quindi appunto ovviamente si lavora molto su esercizi che riguardano fisici, ma che in realtà sono voluti a sviluppare in realtà una corazza che è molto più di coscienza, di mettere un punto su se stesse. E quindi da lì, insomma, tante sono state le esperienze che abbiamo avuto con tanti gruppi, con tante compagne. Ma il nostro l'obiettivo comune di tutte le esperienze di autodifesa che abbiamo avuto, di tutti i gruppi che abbiamo attraversato, è sempre stato quello non tanto dell'allenamento fisico quanto di un allenamento a me viene da dire veramente politico, perché mentale sarebbe un po' troppo facile da legare a una sfera spirituale, no? Un po' individualista. Invece no, perché è proprio un raggiungere una conoscenza collettiva e politica di quali sono gli strumenti che puoi mettere in atto contro la violenza dello Stato, contro la violenza patriarcale, contro la violenza capitalista, contro la violenza imperialista. Questi sono i nostri nemici. E poi certo, ovviamente c'è anche la parte che riguarda la violenza relativa a due corpi che si incontrano, e ovviamente c'è uno che tenta di predominare sull'altro, però a noi interessava sviscerare soprattutto il lato più politico di questa cosa, perché ci siamo rese conto poi nel tempo che sviscerando questo lato politico, mettendo a fuoco quello che era la violenza patriarcale, la violenza capitalista, la violenza imperialista, eccetera, riuscivamo ad essere anche più forti nei confronti poi di situazioni, no, più più fisiche che potevano succedere, perché comunque trovavamo anche delle energie di risposta. E questo perché forse non lo sapevamo all'epoca, però in realtà l'argomento della violenza non violenza era qualcosa che la nostra testa continuava a girare, a ronzare, come se ci fosse bisogno di un ulteriore approfondimento. Quindi effettivamente nella nostra storia politica piano piano abbiamo messo sempre dei tasselli in più per arrivare a quello che poi è questo libro sul paradigma della violenza non violenza. E l'autodifesa è una delle parti che noi abbiamo decostruito per poi costruire un discorso e quindi è fondante nella nostra analisi, perché ci ha permesso comunque di un po' andare a fondo nella questione, una questione che era magari anche molto di pancia, che non riguardava poi grandi sfere, però ci siamo resi conto che veramente il collegamento poi con quello che era l'esterno era tanto e quindi non ci interessava tanto fare l'autodifesa come si fa in palestra, no? Che ti insegnano le tecniche per per menaglie, brava, che sono utilissime assolutamente, cioè non è che mettiamo in dubbio che sia un bello sfogo, poi può piacere o non piacere la pratica delle arti marziali o della box o quant'altro, però effettivamente dà uno sfogo, un'energia fisica molto forte allenarsi in gruppo, però con un obiettivo politico di tentare di capire come decostruire la violenza che subiamo in quanto donne, e ti dà un'energia in più. A proposito di questo volevo fare una precisazione, cioè quando uno parla di autodifesa chiama in causa direttamente il problema dell'autodeterminazione, nel senso che fare autodifesa significa cercare di prendere in carico la propria vita e di trovare una quadratura rispetto alla propria vita, che non è soltanto appunto difesa fisica, ma è difesa a tutto campo. Il problema dell'autodeterminazione adesso è quanto mai attuale e quanto mai da mettere all'ordine del giorno, perché l'autodeterminazione non è una coperta corta, cioè l'autodeterminazione non la puoi tirare dalla tua parte quando ti serve e dimenticare quando non ti serve. Noi come assunto femminista siamo partiti ormai da tanti anni con il corpo mio e decido io. Allora l'assunto il corpo è mio e decido io vale quando una si trova di fronte a situazioni di violenza diretta, maschile, patriarcale, vale quando una si trova di fronte a situazioni di violenza sul lavoro, vale quando si trova di fronte a situazioni di violenza da parte dello Stato. Quindi tutto il periodo che noi abbiamo passato dal fine 2019 adesso, ed è ancora in atto, deve essere affrontato da questo punto di vista. Quindi quando io dico il corpo è mio e decido io, e decido di autodeterminarmi in autodifesa, di autodeterminarmi in senso politico, di autodeterminarmi in ogni aspetto della vita, o cercare di autodeterminarmi, perché è una cosa molto difficile e complessa, questo vale sempre, vale contro le imposizioni che ci sono state per la pandemia, vale contro le imposizioni che ci sono state da parte dello Stato, vale in ogni caso, perché o c'è o non c'è. Questo non significa non riconoscere determinate situazioni, questo significa prenderle in carico, perché una cosa è obbedire, una cosa è autodeterminarsi. Io posso decidere quello che è bene per me, questo bene per me presuppone un'accettazione delle conseguenze e una presa in carico del rischio. Cioè l'autodeterminazione non è una cosa che è facile da gestire, perché un autodeterminandosi può anche sbagliare, però c'è l'assunzione del rischio, io so quello a cui vado incontro, decido per me che quello è il meglio, posso anche sbagliare, posso anche fare un esercizio di verità e di conoscere gli errori, posso anche fare un esercizio di verità e dire che avevo ragione, ma l'autodeterminazione non è assolutamente una coperta corta a cui si può delegare a qualcuno e a cui ci si può sottrarre, sempre facendo un discorso coerente femminile. femminista, perché se poi uno fa un discorso coerente femminista può fare qualsiasi tipo di scelta. Però io vorrei sapere adesso come si può reimpostare un discorso femminista sull'autodifesa, sull'auto-organizzazione, sull'autodeterminazione, senza prendersi in carico quello che è successo in questi due anni. A proposito anche di questo discorso, un concetto interessante del libro è quello del rifiuto alla delega, che si mette un po' in contrapposizione anche appunto alla delega in ambito più generale, quindi di istanze di lotta date in affidamento a partiti, sindacati, in quel che l'è, e anche alla propria difesa. Quindi affidare ad altri la risoluzione di conflitti o la propria difesa nelle strade, ovunque, ma anche una delega anche più nel quotidiano, sempre più, cioè dove si perdono un po' di competenze personali, penso alla cura del sé o anche a affidare a tecnologie tutta una serie di competenze. E questo dà sfumature un po' vittimiste e così anche un po' infantilizzanti, e volevo insomma parlare un po' di questo. Sì, diciamo che poi fra l'altro il discorso dell'autodifesa tira in campo anche il discorso della comunità, per esempio, che cos'è una comunità, tira in campo il discorso della cura, che cos'è la cura, cioè il differenziare per esempio assolutamente la cura dal lavoro di cura, perché il lavoro di cura è quello che il patriarcato ci ha affibbiato, e quindi noi come donne ce lo troviamo di fronte in ogni ambito, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Ed è praticamente quasi una condanna, perché non riusciamo a liberarcene neanche volendo. La cura è quella che scegliamo di portare nei riguardi delle persone, degli ambiti, delle situazioni che ci sono care, che ci stanno a cuore. Quindi la cura presuppone una scelta di attenzione, di affetti, di reciprocità, di tutela. Il lavoro di cura invece è quello che ci affibbia lo Stato. Siccome c'è stata una sovrapposizione tremenda di queste di questi due concetti diversi in questo periodo, anzi lo Stato ha avuto la sfrontatezza di dire che noi siamo in questa situazione perché non c'è stato, non si sa da parte di chi, un'attenzione e una cura nei confronti della gente, nei confronti del mondo, nei confronti della natura, nei confronti del pianeta. Chissà da dove viene questa mancanza di attenzione e di cura, cioè no? E siccome questa strumentalmente adesso la stanno portando fuori in tutti gli ambiti, cioè il problema di questo mondo si risolverà se noi abbiamo attenzione e cura verso questo mondo, questo implica chiaramente immediatamente fare questa differenza, cura e lavoro di cura. E poi la colpa di chi è, no? Perché cioè, altrimenti ribadiamo quell'atteggiamento infantilizzante e colpevolizzante che il sistema ha nei nostri confronti. Quindi ribadiamo una cosa soprattutto, che comunque lo stato di cose in cui siamo non è colpa nostra, punto. Allora, questo è uno. Dopodiché mi pare che la compagna prima ci aveva fatto una domanda sul fatto se abbiamo avuto richieste di soggettività diverse di entrare nell'autodifesa, eccetera. Allora, noi come coordinamenta in un momento del nostro percorso abbiamo avuto direttamente un'esperienza di questo tipo, perché una compagna della coordinamenta ha deciso di fare la transizione al maschile. E quindi abbiamo discusso per molto tempo con lei e con lui adesso, perché lui adesso non è più con noi, ma non è proprio per percorsi di vita, perché è successo qualche anno fa, Perché lei ci ha chiesto, allora noi siamo separatiste, voi siete separatiste, io adesso scelgo di fare la transizione al maschile, posso stare ancora con voi, posso fare il percorso con voi, posso fare le attività con voi, oppure voi mi buttate fuori, cioè comunque siete... Allora, ne abbiamo parlato tanto e alla fine noi abbiamo deciso che rimaneva con noi, cioè tutte insieme abbiamo deciso che sarebbe rimasto con noi. Però in questo sviscerare quello che stava succedendo, non che ci sono capitate delle riflessioni, abbiamo fatto attenzione a tutta una serie di cose e sviscerato tutta una serie di cose. Per esempio, allora... lei che ha fatto la transizione al maschile, però veniva da un'esperienza, da una costruzione di modello come donna, cioè lei praticamente aveva direttamente, era stata cresciuta ed aveva direttamente esperienza di quella che è l'oppressione delle donne, e quindi anche facendo la transizione al maschile lei questo patrimonio se lo portava sempre dentro, cioè sapeva che cosa voleva dire essere oppressa come donna. Viceversa, chi è stato cresciuto come maschio secondo il modello maschile eccetera, secondo noi, poi dall'esperienza di chi abbiamo conosciuto, questa è un'esperienza relativa, non ha pretese di generalizzazione, però si porta dentro i modelli di costruzione maschile, e questo è un dato di fatto che noi abbiamo verificato. Allora, il problema della transizione dal maschile al femminile è un problema complesso che chi ha in carico questa cosa, chi sceglie questa cosa, dovrebbe affrontare in prima persona. Cioè io sono convinta, però ribadisco, questa è una cosa che noi abbiamo, che è venuta dalla nostra esperienza limitata sia all'andata che al ritorno, che secondo me chi fa un'esperienza di questo tipo dovrebbe continuare a lottare, cioè non dovrebbe cercare collocazioni identitarie particolari, no, tipo uno che fa la transizione dal maschile al femminile, alla fine cerca di avere conforto nell'identità donna, no? E di essere riconosciuta come donna, penso. Però questo è una cosa che dico io dall'esterno, secondo me questa lotta la dovrebbero portare avanti loro e non cercare conforto particolare negli altri, perché hanno una lotta specifica, e questo questa considerazione viene dalla nostra esperienza in merito che abbiamo sviscerato con la compagna nostra. Però, insomma, è un argomento che ci ha toccato e noi abbiamo risolto così, che lei comunque è rimasta all'interno del nostro... però noi non ci definiamo transfemministe. Ecco, questo è... Mi ha preso un attimo perso. Sì, non lo so che altre domande avevano fatto. Sì. Sulla delega, giusto, bravissimo. Sulla delega, per noi in realtà mettere in discussione la questione della delega e dell'infantilizzazione è molto importante, e in realtà, appunto, per parlare di tempi più recenti, quelli che sono stati tempi pandemici sono stati tempi in cui l'infantilizzazione soprattutto in qualche modo anche la delega ci hanno sopraffatto, perché un po' è uscito fuori il discorso che appunto avevamo bisogno di qualcuno che si curasse di noi. In più c'è questa cosa da parte del potere. In qualche modo c'è sempre la questione dell'infantilizzazione, che però non è legata a un ritorno in qualche modo, cioè io ti faccio delegare, io mi occupo di te in quanto tu sei mio cittadino, suddito, quello che ti pare, e io in cambio ti do e appunto lista di cose che ti vengono in cambio. No, perché quel patto sociale è completamente rotto. Quindi c'è semplicemente qualcuno che ti obbliga a fare qualcosa, che ti tratta in maniera infantilizzante per poterti più sfruttare, semplicemente per questo, ma in cambio assolutamente non torna niente. Non che se, cioè non è che invece con Ricky Codiglione sarebbe andata meglio, però quantomeno almeno la parvenza di non essere proprio prese in giro già sarebbe stato più piacevole. Invece in questo caso, in quest'epoca, questo non si pone nemmeno, cioè non c'è un welfare state, non c'è assolutamente nessun tipo di servizio utile e funzionale nei confronti di chi vive, ma c'è semplicemente una pretesa. Tu, in quanto sei una donna o anche un uomo, mi devi fare quello che dico io, perché io so cosa è meglio per te. E questa supponenza del sapere sempre cos'è meglio per te poi ti non è che ti costringe, perché qua il femminismo in realtà è molto utile in generale anche per svelare un po', per togliere la maschera, no? E noi sappiamo che in quanto donne, in realtà ci hanno fatto sempre sentire sbagliate, non giuste, in colpa, appunto si parlava della colpa prima, non adeguate, non nel posto giusto, non con la parola giusta, che poi si è trasformata addirittura in paura, no? di fare queste, di fare qualsiasi cosa. Questo fa gioco ovviamente all'infantilizzazione, perché nel momento in cui non si è sicure di se stesse, ovviamente c'è campo libero per poter essere sfruttate, per ascoltare una vocina dall'alto che ci dice: delega a me questo, delega a me quest'altro, fai sì, faccio io il posto tuo, cosa che adesso si è spostata, senza che apro insomma il vaso di Pandora, però che si è completamente spostato per esempio sulla questione della digitalizzazione, no? Cioè tutto è delegato a quello che è il digitale, perché il digitale fa tutte le funzioni e noi dobbiamo sottostare a questa cosa, perché è così e basta. E in questa infantilizzazione, perché non c'è un confronto, non c'è uno scambio, non c'è la possibilità di dire io non sono d'accordo, tu non capisci perché poverino, poverina, non ci arrivi, non è di tua competenza, per cui è meglio che ci penso io, è meglio che deleghi a me, è meglio che lasci spazio a me a queste cose importanti, tu l'occupati solo di questo. Per questo dico che il femminismo questo lo sa bene, perché il femminismo sa che la donna è relegata in alcuni ambienti, in alcuni ruoli a cui gli viene detto e che ci viene detto spesso: tu stai lì che questo ci penso io, tu fai questo che questo è mia competenza. E in realtà questa cosa poi ha preso piede e si è, cioè preso piede, noi abbiamo fatto da cavie per tutto il resto della società civile, se vogliamo chiamarla così, lasciando lo spazio appunto a quello che era un percorso di completa infantilizzazione. Cioè quello che è successo durante la pandemia è lampante, capito? Non c'è stata la possibilità di mettere in discussione nulla che ha riguardato la gestione pandemica, le scelte, addirittura se uno diceva una cosa che prima della pandemia mi sembrava abbastanza banale, anzi, cioè che le case farmaceutiche fanno i loro interessi e che addirittura sfruttano i corpi per poter fare questi interessi, e molto spesso lo fanno portando anche alla morte delle persone o comunque fregandosene se poi ci sono conseguenze, diciamo, fisiche dei loro esperimenti, dirlo dopo il 2020 è diventato quasi appunto un complotto assurdo, quando invece era la cosa più insomma normale da dire per quanto ci riguarda. E quindi non siamo più state padrone del nostro corpo, ma abbiamo dovuto delegare il nostro corpo a enti altri, che potevano essere case farmaceutiche, che potevano essere medici, specialisti. C'è sempre uno specialista nel corpo delle donne, che si occupa del pelo, anzi della frazione di pelo che hai addosso e che ti dice assolutamente cosa devi fare e cosa è giusto che tu faccia, perché tu non lo sai. E questa cosa però si è espansa a tutti e a tutte, e quindi è diventato in realtà in qualche modo diffuso, completamente diffuso, e ci ha rapito. Quindi è anche difficile, mi rendo conto che a volte è difficile riuscire a mettere a fuoco cosa fa parte della delega che ci viene imposta, e cosa è infantilizzazione, quindi perché siamo, cioè ci hanno resi comunque molto stanche. È difficile a volte mettere a fuoco, perché in realtà è un continuo, e non è sotto forma di una battaglia o di una cioè non è una battaglia alla pari, uno contro uno di fronte all'altro, ma è una battaglia come se fosse del gas nocivo che si infila nei nostri polmoni, e noi non ce ne rendiamo nemmeno conto, non lo vediamo, ci prende. E quindi spesso il rifiuto alla delega è difficile, ma semplicemente perché è mascherato molto bene, con tante forme diverse, anche accattivanti, e quindi decostruirlo è un'azione molto complessa, molto complicata. A questo proposito volevo... cioè, questo potrebbe spiegare anche perché noi cerchiamo sempre di partire da noi, ma di trasferire la nostra analisi nella comprensione della critica all'intera impostazione della società. Per esempio, questo di cui parlava Noemi è l'impero del bene, cioè questa fase del capitale ha impostato la sua azione come impero del bene, cioè il capitale adesso transnazionale neoliberista è portatore del bene del giusto, che sia nello specifico dello stato etico che sta impostando all'interno dei governi e delle democrazie occidentali, che sia nei confronti degli altri popoli, dei popoli colonizzati, che devono rispettare le regole della nostra democrazia, che sono chiaramente dittature, quindi l'impero del bene e del giusto è lecito che intervenga e porti la nostra democrazia, il nostro modo di vedere le cose. Chiaramente questo non è vero, nel senso che rispecchia interessi economici, geopolitici, di dominio del mondo. Però questa impostazione etica, sia sul fronte esterno sia sul fronte interno, è la stessa, cioè il modo in cui questo sistema si comporta nei confronti della popolazione interna è lo stesso con cui affronta i rapporti con gli altri popoli e con le guerre, quelle che definisce infatti umanitarie, no? Cioè le guerre adesso sono umanitarie, non sono guerre neocoloniali, non sono guerre di conquista, non sono guerre di interessi economici, non sono guerre di dominio del mondo, sono guerre umanitarie, perché noi abbiamo sempre ragione, siamo nel giusto. E così anche lo Stato qua non è uno Stato che ti vuole imporre le cose, non è uno Stato che ti vuole sottomettere, non è uno Stato che vuole l'assoggettamento volontario, ma lo fa per il tuo bene, per il bene di tutto, di tutti, per il bene della comunità. Una cosa per fare un esempio, per esempio appunto l'impero del bene sono gli Stati Uniti, no? Cioè è la NATO, che magari firma decreti, leggi, quello che è, sui diritti delle comunità LGBTQ+, però poi va a bombardare l'Afghanistan, poi opprime i popoli, poi esporta la democrazia in giro e fa solo guerre. Però sono bravi perché si sono occupati dei diritti della comunità LGBTQ+, e quindi siamo tutti felici. E anche delle donne col velo, sì, perché le donne col velo sono, certo, motivo, bravo, di portare le guerre ovunque. è chiaro che noi, cioè la donna col velo, ci fa stare male, diciamo, fisicamente, però questo non significa che noi siamo autorizzati ad andare da lei e a liberarla per conto nostro, cioè è una cosa folle, altrimenti viene fuori quello che è successo in Francia, che hanno fatto una legge contro il velo, per cui in effetti, negando ogni forma di autodeterminazione alle donne che si volevano comportare diversamente. Ma questo ormai è un paradigma che è assolutamente patrimonio di tutto il mondo occidentale. No, questo sì, va. Questo sì. Che questa cosa, secondo me, dell'impero del bene è assolutamente legata al monopolio assoluto della violenza da parte dello Stato, anche all'interno del discorso che abbiamo appena fatto della delega. Cioè è evidente che, per esempio, non solo l'idea di un uso politico della violenza è ormai marziani, ma anche per me è evidente che tantissime forme che per assurdo nascono dal mondo della pratica creativa della non violenza, ormai perfino, come posso pensare al sabotaggio, posso pensare alla vernice sulle statue, cioè tutte pratiche che nascono da un contesto in realtà di formazione non violenta, di pratiche, di laboratorio di pratiche, ormai appartengono di default all'ambito già della violenza. E quindi in realtà la cosa di cui noi volevamo arrivare a parlare è proprio come questo binomio, da un lato, abbia portato, come dite voi molto bene, e il femminismo in questo è stato vittima e artefice di questo spostamento della politicità legittima solo dal lato della non violenza, quindi che l'unica lotta che paga è quella che non rompe le vetrine mai, che l'unico modo per avere a che fare con lo Stato è appunto quello di chiedere per ottenere, ma in una forma che posso avere più polizia in strada perché così non ho più il problema delle aggressioni, perché e è tutto assolutamente chiuso all'interno di questa griglia che da un lato l'unica cosa che tu puoi fare è chiedere più tutela, come è il tuo diritto finisce lì, e soprattutto uno spostamento progressivo delle pratiche che si riducono, cioè lo spazio di dibattimento politico anche fisico corporeo è ridotto a uno stagno in cui diciamo tutto ciò che non è neanche alzare la voce, perché tra un po' forse non va bene più neanche quello, è già incorniciato nella rivolta contro, non lo so, tutto e tutti e niente. Quindi in realtà è un tema che secondo me passa attraverso il femminismo sia storicamente ma anche a livello di utilizzo delle pratiche e di aver dimenticato alcuni percorsi di lotta, che è la cosa che a me è piaciuta di più del libro. E quindi anche questa immagine del femminismo come il movimento buono dell'impero del bene, che non ha mai fatto male a nessuno e che ha solo dato diritti a tutte. E niente, quindi io vorrei, e spero anche che questa cosa ampli un po' il dibattito, entrare all'interno di come si è chiuso strettissimamente questa cornice e di come si può pensare forse di romperla. Sì, secondo me si è iniziato, cioè questo cerchio si è stretto. Scusami, approfittiamo per due cose che volevamo dire insieme, certo, che abbiamo in una. Perché è strettamente legato a questo discorso, al discorso del fatto che con l'andare del tempo ogni, cioè diciamo l'asticella di quello che è legale o illegale si alza o si abbassa a seconda dei punti di vista, sembra di più, quindi qualsiasi cosa diventa illegale. È una frase molto bella che adesso non ce l'ho sotto mano, però provo a ripeterla più o meno, che c'era nel libro, è questa cosa che si lega anche al discorso sull'infantilizzazione che facevate prima, è che cioè questo ampliamento dell'illegalità porta alla fine al non agire, fondamentalmente. Quindi poi ogni cosa è violenta, ogni cosa è illegale, quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è stare buoni e zitti e non fare niente. Non fare niente e delegare allo Stato è l'unica cosa che si può fare, perché le cose vadano meglio, quando invece in realtà il problema sta proprio lì. Quindi legare un po' questi due discorsi, quindi sulla violenza e l'illegalità. Allora, il sogno di ogni potere è l'assenza di una controparte, cioè zittire qualsiasi tipo di dissenso, qualsiasi tipo di alterità, qualsiasi tipo di discorso alto. Questo tipo di organizzazione sociale, questo tipo di potere neoliberista che è in atto, ha portato questa pretesa all'ennesima potenza. Cioè vuole destituire di qualsiasi possibilità anche la semplice critica. Allora, è verissimo, una delle ragioni per cui abbiamo fatto questo libro è proprio questa, riuscire a capire quali sono stati gli ambiti e quali sono stati i meccanismi per cui questo tipo di potere in 30 anni più o meno ha destituito ogni capacità di reazione da parte della popolazione, cioè ha costituito un comune sentire di tipo fascistizzante che ha pervaso ogni ambito della società. Come ha fatto a fare questo? Uno dei percorsi privilegiati è stato quello di battere sul feticcio della legalità, cioè la legalità è diventata un feticcio e sono riusciti a far perdere qualsiasi tipo di riferimento alla realtà delle cose, cioè a far perdere quelle che sono le coordinate di base, cioè che cos'è lo Stato? Lo Stato è l'organizzazione effettiva del potere politico. Quindi non è qualcosa che ha dei connotati positivi in sé, è l'organizzazione diretta del potere politico. Che cosa sono le leggi? Le leggi sono quelle che chi detiene il potere politico fa perché quelli che sono soggetti le osservino. Allora, queste cose banalissime, per cui una volta anche all'osteria si diceva piove, governo ladro, adesso sono passate completamente, cioè sembra che siano state assolutamente dimenticate. C'è un aneddoto, chiamiamolo, uno scrittore francese dell'Ottocento, Anatole France, aveva detto una volta, in tempi completamente diversi che sembrano addirittura antidiluviani, dice: per capire che cos'è la legge basta pensare a questo: se ci fosse una legge che dice che non si può dormire sotto i ponti, cosa che poi adesso c'è, no? Allora, se ci fosse una legge che dice che non si può dormire sotto i ponti, siccome i ricchi di dormire sotto i ponti non ne hanno assolutamente bisogno, si capirebbe subito da chi sono fatte le leggi e a chi sono destinate. Cosa che adesso è assolutamente fuori di ogni grazia di Dio, perché non solo è proibito dormire sotto i ponti, ma è proibito sedersi nei giardini, è proibito mangiare il panino, è proibito fare gli schiamazzi, è proibito andare in giro con la bottiglia in mano, è proibito parcheggiare senza pagare, è proibito quasi tutto. Come diceva la compagna, i margini rimasti sono pochissimi, e ogni cosa deve essere codificata, deve essere sistematizzata, per ogni cosa ci deve essere una legge, però ricordiamoci sempre da chi sono fatte le leggi. Allora, la legalità, il concetto di legalità, non è un caso che lo insegnino nelle scuole, addirittura dall'asilo. Noemi poi ha un'esperienza che poi vi racconterà che dà paura. Allora, la legalità è uno strumento principe di questo sistema, e smontare il concetto di legalità dovrebbe essere uno dei cardini della nostra azione politica. Qualsiasi cosa facciamo dovremmo cercare di smontare il concetto di legalità, perché il comune sentire è stato incardinato su questo. Allora, nel libro c'è, abbiamo fatto un'iniziativa con Silvia De Bernardinis rispetto all'esperienza degli anni 70, che è stata molto interessante. Perché? Perché in effetti negli anni 70 l'illegalità, che era una pratica dominante, è stata la, è stata l'illegalità foriera di nuovi diritti e nuova possibilità di autodeterminazione, non le lotte categoriali, non la richiesta di leggi, non la richiesta di diritti, ma l'illegalità diffusa. E vi faccio un esempio proprio nostro come femministe. Sulla famosa legge 194 sull'aborto, cioè la 194 non è stata data perché è stata chiesta, non è stata data perché le donne facevano le manifestazioni, non è stata data perché lo Stato è stato buono o comunque si è reso conto che ormai le robe erano mature, è stata data perché noi facevamo gli aborti da sole in totale illegalità. Allora, nel momento in cui l'illegalità diventa pratica, diventa lei legge, diventa lei consuetudine, diventa lei norma, diventa lei verità. Quindi noi non ce l'hanno dato la 194 perché ci hanno dato il contentino o perché abbiamo fatto le lotte, ce l'hanno data per togliere l'acqua ai pesci, perché noi facevamo gli aborti da sole e lo rivendicavamo, e se trovavano qualcuna che era, chiamiamola in flagrante, che era stata, che stava facendo gli aborti, eccetera, tutte scendevamo in piazza e tutte dicevamo: abbiamo tutte abortito, denunciateci tutte. È così che l'illegalità di una pratica ha costretto lo Stato non a fare una legge, ma a togliere l'acqua ai pesci. Se noi volessimo veramente, al di là di tutte le menate che dicono le socialdemocratiche, riavere l'aborto come si deve, cioè noi dovremmo batterci per l'aborto libero, non per far funzionare la 194. La 194 è uno strumento di controllo dei nostri corpi. Noi la dobbiamo, la vogliamo come vogliamo qualsiasi servizio sanitario, perché non è che anche l'emancipazione, il fatto che io faccio l'architetto non è che mi fa schifo, mi fa piacere, ma non è che l'emancipazione è il mio fine. Non è che io sono contenta di fare l'architetto, io voglio la liberazione delle donne, poi mi dai, mi faccio l'architetto perché mi piace. Io ho la 194, 194 la devi far funzionare, ma noi vogliamo l'aborto libero, e per avere l'aborto libero tocca rivendicare l'illegalità. Noi dobbiamo andare negli ospedali e abbiamo le compagne ginecologiche, quel giorno facciamo gli aborti noi. Se noi non la mettiamo su questo piano, la 194 non solo non la fanno funzionare, ma ce la toglieranno proprio. Allora, io prima di partire col dibattito, che spero ci sia perché ci sono degli argomenti molto interessanti, volevo fare... Non so se volevi finire tu, perché io c'è l'aneddoto bomba. No, l'aneddoto dicevi, no, non varie. Un figlio alla storie brutte ce n'è. C'ho varie storie brutte. No, quella del consenso. Okay. Allora, sì, su una storia che riguarda in realtà quello che succede a... Io ho un figlio piccolo che va alla materna e parlando, insomma, capendo, insomma, qual è l'approccio pedagogico, mi sono imbattuta nella questione del consenso insegnato ai bambini. Lì per lì non mi sembrava niente di particolare, poi però andando a vedere appunto almeno il modo in cui veniva insegnato era questo. Bisogna sempre chiedere al bambino, alla bambina, se vuole un abbraccio, se vuole un bacio, se vuole questo, però riferito anche ai genitori. Ora, partendo dal fatto che ovviamente non sto parlando di situazioni borderline, quindi non di soprusi familiari, ma stiamo parlando di una qualsiasi X famiglia, mi sembrava assurdo perché, cioè, io in quanto genitrice, cioè, nel senso, ora devo chiedere il permesso, cioè, già sono donna e quindi ho dovuto chiedere il permesso per qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia esistenza. Ora anche a mio figlio, cioè, ho detto, boh, forse aspetta, fammi ragionare un attimo. E quindi ho pensato, secondo me questo approccio di dover chiedere a lui e quindi intanto dargli una responsabilità assurda quando proprio a livello d'età, secondo me non è ancora giunto il momento in cui possa prendere coscientemente le sue decisioni, perché ovviamente i bambini cioè la volta che ti saltano addosso e ti vogliono abbracciare, la volta che non ti devi nemmeno avvicinare, ma questo si capisce abbastanza, cioè nel senso non è che serve un vademecum scritto per capire questo, quando sono più favorevoli all'approccio fisico e quando non lo sono, diciamo che insomma ci si può arrivare con un po' di intuito. E a me quello che è passato per la testa è che questo modo di insegnare il consenso, che poi è il modo che gira molto nel mainstream e ho trovato molto nei gruppi di, cioè poi ho fatto un po' una ricerca pure sui social per vedere appunto quanto questa cosa fosse semplicemente capitata a me per caso e quanto insomma avesse un po' un bacino d'utenza più largo, purtroppo aveva un bacino d'utenza molto largo. E mi sembra invece che vada a scardinare la questione dell'autodeterminazione, cioè io mi autodetermino pure da bambino o da bambina e io ti dico cosa voglio, no, cioè tu togli la possibilità a un bambino di dire no, mamma vattene, no, papà vattene, lo fanno, cioè non è che hanno problemi, grazie al cielo, quando sono bambini non hanno problemi a dirti no e allontanarti. E anzi questo potrebbe essere un buon esercizio per l'autodifesa e quindi in realtà il potere, questo assoggettamento totalizzante, ovviamente adesso hanno capito che, come con la femminilizzazione, hanno capito che quello che era l'oppressione di genere poteva essere portato tranquillamente in altre categorie, attraversando ovviamente prima le minoranze, perché era più facile, perché già sono minoranze, quindi ovviamente il gioco è facile perché sei già vessata. E quindi quello che faceva l'oppressione di genere è stato portato, appunto, l'abbiamo già detto, l'infantilizzazione, il rifiuto della delega, la distruzione dell'autodeterminazione, è stato allargato a tutti, senza più lasciarlo semplicemente a minoranze di genere, minoranze etniche o quant'altro. No, lo facciamo a tutti quanti, così siamo equi e democratici. E adesso ovviamente hanno pensato, vabbè, ma non basta solo la femminilizzazione dell'oppressione, quindi non basta distribuirla ovunque, prendere quello che abbiamo già fatto con le donne, ma prendiamoli già bambini e assoggettiamoli, addomestichiamoli, perché non basta addomesticarli da grandi, anche se funziona benissimo e col Covid proprio c'è stato praticamente una palla da bowling, ha buttato giù tutto e è caduto così, come se nulla fosse, come una folata di vento, ma c'è bisogno di addomesticare i bambini, così non c'è neanche più bisogno di inserirsi a un certo punto della loro esistenza da adulti e educarli, ma noi li costruiamo già da bambini. E per la questione del consenso in realtà è stato questo, perché ovviamente non è fatto per insegnare appunto l'autodeterminazione, l'autodeterminarsi e a rispondere nel caso non si voglia o si voglia qualcosa, a conoscere il proprio corpo, il proprio piacere, il proprio desiderio, non è volto a questo. Nel momento in cui il potere parla di consenso, allora bisogna preoccuparci, ma questo su tutto quanto finora ci è sfuggito, forse non a tutte ma a molti è sfuggito. E dobbiamo fare caso a tutto ciò che viene ribaltato dal potere, assurdo dal potere, quello che, l'esempio che facevo anche prima, no? Rispetto agli Stati Uniti, che firmano decreti e leggi a favore delle comunità LGBTQ+, come diceva Elisabetta, come l'emancipazionismo, non ci fanno schifo, però comunque dobbiamo mantenere sempre l'occhio vigile e l'orecchio ben appizzato per ascoltare quello che in realtà poi è il messaggio subliminale che poi passerà all'oppressione, che in qualche modo non sarà una concessione, non sarà a quanto sono bravi, però vedi sono attenti alle nostre necessità, ma semplicemente sarà l'ennesimo modo in cui si sono intrufolati all'interno proprio ormai del nostro corpo, come fossero una cimice sotto pelle, per farci funzionare e far sì che poi la paura e tanti piccoli meccanismi facciano sì che noi non mettiamo più in discussione la delega, non mettiamo più in discussione l'autodeterminazione, ma ci lasciamo completamente a quello che è un volere altro da noi. Anche perché se poi non è così, se noi non ci lasciamo questo volere, ci viene promesso che comunque ci sarà violenza, perché quella violenza è una violenza che rimane, è una violenza giustificata. La nostra violenza, cioè la nostra risposta, invece è quella che viene vessata e sempre messa all'angolo, mortificata, messa in colpa e raccontata come la cosa più brutta del mondo, cioè nel senso appunto sabotaggi di strumentazioni sono raccontati come, non so, un terrorismo, quando invece quello che avviene sui nostri corpi viene semplicemente raccontato come una controindicazione che purtroppo è successa, ma non era questo. Se tutti cioè questa frase le donne se la sono sentita dire da quando sono nate: se tutti fossi comportata bene non sarebbe successo, e questa cosa però ormai riguarda tutti quanti. Appunto, sul comportarsi bene. Dicevo prima nel dibattito volevo fare un piccolo pensiero. Allora, alcuni di noi volevano ricordare in questa giornata un nostro compagno che è Alfredo Cospito, che in questo momento è detenuto nel carcere di Bancali a Sassari in regime di 41 bis, cioè che è un regime di carcere duro. Non so neanche bene come spiegarvi in due parole cosa vuol dire questa cosa, cioè vuol dire non poter parlare con nessuno, non poter avere contatti con l'esterno, non poter leggere, studiare, non poter avere libri. Ci sono regole veramente ridicole, come il numero di mutande che puoi tenerti nella cella per la tua settimana, il tuo mese. È detenuto lì in questo regime principalmente perché ha sempre voluto parlare e dire quello che pensava, dire, comunicare con i suoi compagni, portare un'opinione al dibattito politico dei compagni anarchici, e sono 60 giorni oggi che è in sciopero della fame. È stato seguito nello sciopero della fame da altri compagni che ora hanno terminato il loro sciopero per problemi di salute. E lui ha intenzione di continuare a oltranza fino all'abolizione dell'ergastolo ostativo per tutti e del 41 bis per tutti i detenuti. Volevo leggere un piccolo passaggio del libro delle compagne che riportano uno spettacolo teatrale, una riadattazione di uno spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca Rame sulla storia di Ulrike Meinhof, che ha subito la stessa lo stesso tipo di detenzione e che secondo me è molto rappresentativo per capire quello che sta passando questo compagno, e vi invito tutti, vi prego tutti a informarvi, a capire cosa sta succedendo, a dare solidarietà a questa persona che sta combattendo per tutti noi e per le nostre libertà. Nome: Ulrike. Cognome: Meinhof. Di sesso femminile. Età: 41 anni. Sì, sono sposata. Due figli, nati con parto cesareo. Sì, divisa dal marito. Professione: giornalista. Nazionalità tedesca. Sono qui, rinchiusa da 4 anni, in un carcere moderno di uno Stato moderno. Reato? Attentato alla proprietà privata, e alle leggi che difendono la suddetta proprietà privata e il conseguente diritto dei proprietari ad allargare a dismisura la proprietà di tutto, compreso il nostro cervello, i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri gesti, i nostri sentimenti, il nostro lavoro, il nostro amore, tutta la nostra vita, insomma. Per questo avete deciso di eliminarmi, padroni dello Stato di diritto. La vostra legge è davvero uguale per tutti, meno per quelli che non sono d'accordo con le vostre sacre leggi. Voi avete sollevato alla massima emancipazione la donna. Infatti, pur essendo una femmina, mi punite proprio come un uomo. Vi ringrazio. Mi avete gratificata del più duro carcere, gelido, asettico, da obitorio, e mi sottoponete alla più criminale delle torture, cioè la privazione del sensoriale. Che espressione elegante per dire che mi avete seppellita in un sepolcro di silenzio. Un silenzio bianco. Bianca è la cella, bianche le pareti, bianchi gli infissi, di smalto bianco perfino la porta, il tiavolo, la sedia e il letto, per non parlare del cesso. La luce al neon è bianca, accesa sempre, giorno e notte. Ma qual è il giorno e qual è la notte? E come posso saperlo? Attraverso la finestra passa sempre una stessa luce bianca, una luce finta come solo, come è finta la finestra, e finto è il tempo che mi avete cancellato, dipingendomelo di bianco. Silenzio. Silenzio dal di fuori, non un suono, un rumore, una voce. Dal corridoio non si sentono passi, né porte che si aprono o si richiudono, niente. Tutto silenzio è bianco, silenzio nel mio cervello, bianco come il soffitto, bianca la mia voce se provo a parlare. Voi ostentate tanta sicurezza, ma è solo la gran paura che vi fa tanto crudeli e pazzi. Per questo avete bisogno di continuo baraccone e baccano, di tante luci al neon colorato dappertutto, e vetrine, e suoni, e fracasso, e la radio, e la filodiffusione sempre accesa dappertutto, nei vostri grandi magazzini, nelle case, in macchina, nel bar, e perfino a letto quando fate l'amore. È la paura del silenzio che imponete a me, perché voi sì avete il terrore di star soli con il vostro cervello, perché avete orrore del dubbio che questo vostro non sia il migliore dei mondi, ma il peggiore, il più squallido. Ora io lascio il microfono qui sopra. Chi volesse dire qualcosa? E interrompiamo la diretta streaming, così il dibattito è libero e chiunque può parlare senza problemi.